Sono al MAST per la conferenza stampa di Image Capital, una importante mostra che parla di fotografia come tecnologia dell'informazione. E ho l'opportunità di essere col curatore Francesco Zanot, che ci racconterà in sintesi che cos'è questo lavoro, una risultanza della collaborazione tra un grande fotografo e una storica della fotografia. Sì, Image Capital è una mostra di fotografia sulla fotografia, nel senso che la fotografia non è solo il linguaggio espressivo attraverso cui le opere vengono realizzate, ma anche il soggetto dell'investigazione di un artista, appunto, e di una ricercatrice. La fotografia qui viene investigata come tecnologia dell'informazione, quindi intesa come parte di un processo che sfrutta computer e altre macchine per memorizzare, per rintracciare, per trasmettere, per elaborare dati. Perché Image Capital? Perché le immagini costituiscono una forma di valore, una forma di valuta, un vero e proprio capitale, oggi come oggi. Se pensiamo ad esempio alle immagini contenute negli archivi o nelle banche di immagini digitali, o pensiamo alle immagini che riunite in dataset nutrono gli algoritmi che circondano i sistemi digitali intorno a noi, ecco, queste immagini hanno un fondamentale valore strategico per chi le possiede e una sorta di vantaggio per loro. In questo senso, capitale. Infatti, tornando un passo indietro, è da metà del Novecento che si pensa all'utilizzo della fotografia come tecnologia dell'informazione. Sì, assolutamente sì. Questa mostra è una mostra che in qualche modo ripercorre questa storia in senso anche storico, non cronologico, perché è una mostra suddivisa in 6 sezioni che costituiscono 6 approfondimenti, casi studi, carotaggi in qualche modo per approfondire questo tema, ma approfondendolo anche appunto in senso verticale, per così dire. Quindi dagli anni 50 sicuramente, ma addirittura ancora prima, ci sono alcune opere che abbiamo incluso all'interno della selezione che risalgono alla fine dell'Ottocento fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi è un percorso che si estende nel tempo, che guarda al passato, al presente, ma anche al futuro della fotografia in qualche modo. Insieme a noi abbiamo il grande fotografo Armin Linke, che è uno dei due artisti protagonisti di questa mostra e al quale vorrei chiedere questo tipo di fotografia in cosa si differenzia, in cosa si esplica. Ci siamo interessati alla fotografia che possiamo chiamare operativa, cioè che fa parte dei processi di produzione sia di informazione, produzione sia anche proprio di oggetti. E arriviamo all'ultimo capitolo dove guardiamo come adesso con i rendering abbiamo un'inversione: produrre immagini non documenta più la realtà, ma produce la realtà. La mostra nasce appunto insieme alla ricerca con Estelle Blaschke, in realtà nasce da una conferenza, da una performance che abbiamo fatto assieme 4 anni fa, e ci siamo poi domandati come portare questo dialogo in uno spazio fisico, e assieme al curatore Francesco Zanotta abbiamo elaborato anche un modo un po' particolare di esporre la fotografia, perché le fotografie non sono appese alle pareti ma sono proprio nello spazio. Il pubblico è come se entrasse in un giardino e deve scoprire delle cose che sembrano molto lontane e deve fare le proprie associazioni. Perciò è una mostra in cui si può fare una flânerie come in un giardino, ma si può anche approfondire e proprio studiare. Tra l'altro abbiamo anche sviluppato una piattaforma di pubblicazione web e molte delle cose sono anche su open access, perciò anche dopo la mostra o anche prima della mostra, image-capital.com, si può già vedere e prepararsi in un certo senso alla mostra. Posso spiegare quali sono i capitoli? Sì, perché in questo processo rovesciato in cui la fotografia diventa non tanto registro della realtà quanto produttrice della realtà medesima, avrete organizzato in sezioni questo tipo di percorso? Sì, la prima sezione è memoria. Tell ha lavorato a lungo sul tema del microfilm, come per esempio sin dall'inizio della fotografia il fondatore della ditta Kodak, George Eastman, che era anche banchiere, ha sviluppato un'altra ditta che era Recordac per documentare e fotografare gli assegni della sua banca. Siamo stati anche al Kunsthistorisches Institut, che è l'istituto di storia dell'arte a Firenze, e ci siamo domandati come nelle fotografie le informazioni venivano iscritte nelle fotografie e come queste iscrizioni, che partono già dal 1800, ora sono digitali, ma abbiamo diverse stratigrafie di informazioni. E quello che è importante è che noi ci dimentichiamo che spesso quando pensiamo alla fotografia pensiamo all'immagine, ma quando cerchiamo per esempio su internet un'immagine noi scriviamo sempre una parola. E dunque la parola scritta è parte integrante ormai delle fotografie. Qui arriviamo al secondo capitolo, access, cioè come accedere alle fotografie. Perciò chi produce fotografie o diciamo le industrie stanno ora pensando come sfruttare questi metadati. Quando noi carichiamo, ed è anche un problema, un fattore sociale, perciò anche una mostra che pone delle domande sociali. Quando noi carichiamo le nostre fotografie dell'iPhone su Instagram, in verità stiamo caricando anche tutti i metadati, dove siamo, chi siamo, qual è il nostro cellulare, qual è la nostra posizione, e anche descriviamo spesso le fotografie. E perciò le grandi compagnie raccolgono questi dati, non sono più interessati alle fotografie, ma sono interessati a come noi leggiamo le fotografie, come le descriviamo, perché queste descrizioni poi vengono immesse in questi grandi database che alimentano l'intelligenza artificiale. E qui arriviamo al titolo della mostra, Capitale. Quindi è evidente come se i dati che noi mettiamo anche a corredo delle nostre foto vanno ad alimentare l'intelligenza artificiale, diventiamo automaticamente noi stessi produttori della futura realtà. Sì, però cediamo anche delle nostre informazioni a delle compagnie private invece di cederle, diciamo, in modo pubblico, in modo che questo sapere o questo capitale possa essere messo a pubblica disposizione. Il terzo capitolo è proprio mining, cioè come queste informazioni vengono sfruttate. Siamo andati anche grazie all'Università di Delft, perché abbiamo molte collaborazioni in questa mostra. È stata possibile grazie a delle ricerche Estelle fatte con la Rockefeller Foundation, piuttosto che con una residenza che ho avuto al CERN, al Centro di Fisica Europeo a Ginevra, oppure con collaborazioni con l'università. Siamo stati a Delft e siamo andati a vedere come vengono prodotte le orchidee in una fabbrica che produce 8 milioni di orchidee l'anno, e alla fine del processo di crescita le piante vengono portate automaticamente in uno studio fotografico, le orchidee vengono fotografate 30 volte. Queste immagini vengono montate in forma tridimensionale e date in pasto a un sistema di intelligenza artificiale che decide il prezzo di vendita della pianta in base alla sua qualità estetica. Il quarto capitolo, imaging, ovvero come queste immagini poi, o come queste informazioni vengono poi riportate in immagine. Abbiamo delle immagini, abbiamo anche degli originali dall'archivio del CERN. Guardiamo anche, diciamo, come gli scienziati interpretano le immagini, non solo l'industria. Nell'ultima sezione è currency, in cui guardiamo proprio, diciamo, il valore economico, come le immagini fanno parte del sistema economico. Perfetto, quindi si parte oggi stesso, 22 settembre, e fino all'8 gennaio 2023, ingresso gratuito dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19. Quindi io ringrazio sentitamente il curatore Francesco Zanotte e Armin Linke per la esaustiva spiegazione.